Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E sembrava ieri che ci eravamo lasciati, e quante cose, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, sono successe anche in questa settimana, a partire addirittura dal giorno dopo in cui ci siamo lasciati, quindi da domenica. Non è che la settimana è iniziata da lunedì, ma da domenica, sapete, è stata presentata la manovra con tutto quello che è successo. E naturalmente, come sempre, ci ritroviamo qui il sabato dalle 14 alle 15 per raccontarci un po' le notizie della settimana, soprattutto sentire le vostre libere opinioni su questi tanti fatti, e tra poco anche quello dell'opinionista estemporaneo o estemporanea di oggi. Chi sarà? Tra pochissimo lo sapremo, ma intanto vi ricordo, fra le tante cose successe, no? Intanto il numero verde al quale potete chiamare liberamente, gratuitamente, è sempre quello, 800 24 00 24. Fra le notizie, dicevamo, quindi la presentazione domenica, perché questo nuovo Presidente del Consiglio ama lavorare anche di domenica, si taglia i capelli di domenica, incontra le parti sociali domenica, domani sera mi pare, domenica incontrerà i sindacati e le parti sociali in genere, e no, i sindacati, perché gli imprenditori eccetera mi pare li avesse già incontrati. Quindi dicevamo, l'evento più così che maggiormente ha colpito sono state le lacrime della Fornero, varie opinioni anche sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, poi mi farete sapere anche le vostre, di voi che state ascoltando in questo momento. E fra le varie misure, anche per esempio, a parte l'ICI, l'IVA, la benzina, che non so se siete andati alla benzina, si vedono i cartelloni dei prezzi, uno non crede ai propri occhi, dice, ma come, ieri era così, adesso è cos'è? Insomma, un vero dispiacere questo, naturalmente, soprattutto per le nostre tasche. E si è parlato anche dei vitalizi dei parlamentari, in realtà uno si aspettava qualcosa, diciamo, di più stringente, come si usa dire in questo periodo, però intanto i vitalizi, quindi queste pensioni maturate nel corso di 5 anni, si potranno riscuotere per quelli che vanno in pensione prossimamente, non è retroattivo, dai 60 anni in poi. Ci vorranno tot anni di contributi, insomma, però qualcuno li trova ancora giusti perché non sono stati equiparati a quelli dei cittadini comuni. Comunque potete naturalmente dire le vostre opinioni anche su questo. Poi ieri il grande attesissimo vertice dell'Unione Europea con gli accordi che sono stati sanciti, ma 26, perché Londra si è tirata indietro, dice no, per me non è conveniente fare questo tipo di accordo, rivedere il trattato. Quindi è stato un patto a 26, regole più strette sui pareggi di bilancio, fondo salva stati affidato alla Banca Centrale Europea, insomma queste le cose principali. Poi la polemica sull'ICI, anche andata per la maggiore ultimamente in questi giorni, per quanto riguarda in particolare gli immobili della Chiesa. In realtà era da tempo che ci si chiedeva perché la Chiesa, a parte per appunto i luoghi dove si svolge il culto religioso, oppure quindi le parrocchie e altre cose non a scopo di lucro, perché per gli altri immobili, molti anche magari molto lucrosi come alberghi o cose di questo tipo, non devono pagare l'ICI. E ieri, dopo che anche su Facebook e anche sulla pagina Non ci sono più le mezze stagioni un sacco di ascoltatori e ascoltatrici hanno detto la loro, il cardinale Bagnasco, presidente della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, quindi presidente praticamente dei Vescovi Italiani, ha detto vabbè, potremmo discutere di questa questione, è un'apertura importante, vedremo come va a finire. Poi il pacco bomba a Equitalia, la società che per lo Stato ha il compito di riscuotere i tributi, un momento di tensione, certo, però non bisognerebbe arrivare a questi livelli. E poi la Siria, se vogliamo stare anche su un ambito più aperto, più internazionale, la Siria con una repressione che continua sanguinosa giorno per giorno, è stata ritrovata la bara di Mike Buongiorno, insomma. Ve l'ho detta qualcuna, 800 24 00 24, ma diciamoci anche, come ogni sabato, perché non ci sono, cosa che ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Diciamo, stiamo un po' sul leggero questa settimana. Lady Gaga, regina del pop internazionale, cosa ha detto? Ho paura di morire come Lady Diana, ho paura di morire per fama. Ecco, una volta si diceva paura di morire per fame, adesso c'è anche qualcuno che ha paura di morire per fama. Ecco, questo ci conferma, mentre altre cose comunque restano quelle che sono. 800 24 0024, signore e signori, volete sapere a questo punto chi è l'opinionista estemporaneo di oggi? Susanna Tamaro. Pronto? Buongiorno. Susanna, ah no, pensavo... C'era qualche coniglietto che scappava per casa, forse ti è distratta, vero? Non vorrei che vi pentiste di darmi come opinionista, che sono opinionista un po' fuori... Estemporaneo. Appunto con i conigli. Infatti, Susanna, perché mi è dispiaciuto che Susanna Tamaro non è venuta direttamente qui in studio? Perché io mi aspettavo portasse un coniglietto vivo, naturalmente, una forma di formaggio, visto che fai formaggi, no, Susanna, tu? Sì, una bottiglia cavoli, d'olio. Che è la stagione, sì. Una zucchina, nel tuo orto no, cosa c'è? Per primavera. Le ultime due stagioni, ecco. Le ultime zucchine le ho raccolte verso il 20 novembre, che è semplice, io vivo quasi in montagna, di solito si raccolgono i primi di settembre le ultime zucchine, dunque questo è la è prova che non ci sono più le mezze infatti, stagioni. Infatti. In questo periodo invece nel tuo orto cosa c'è? Se fossi venuta che cosa mi avresti portato? Anche un trionfo di cavoli, verde, cavolo nero... cavoli rapa, cardi, cicorie, finocchi, tutte le cose invernali. Trionfo di cavoli soprattutto, sì, ecco, cavoli, in genere succede, no, diciamo, anche in questo periodo. Sì. Susanna Tamaro, c'è bisogno di presentazioni, è con lei che ha scritto, ha appena pubblicato due libri, di cui adesso vi dirò, ma Va dove ti porta il cuore, chi non lo conosce, tradotto più o meno in tutto il mondo, e tra l'altro, Susanna, è stato anche il libro inserito nell'elenco dei... cosa sono i 100 libri che hanno fatto la storia dell'Italia, sì, vero? Sì, certo. In occasione appunto dei 150 anni sì, dell'Unità sì. d'Italia. E i libri invece che ha appena pubblicato, tra un cavolo e un finocchio, diciamo, Susanna, in questo momento è Per sempre, un bel libro su tante questioni, diciamo, fondamentali della vita, pubblicato da Giunti, e L'isola che c'è, che poi è una raccolta di brevi saggi, no? Pubblicato da questo tempo, io pur vivendo a Partata, anzi forse proprio perché vivo a Partata, mi piace riflettere su quello che succede da un punto di vista appunto dei conigli, insomma, dei cavoli, cioè di chi sta fuori dalla grande chiacchiera del mondo. Insomma. Quindi Susanna, vi potete immaginare, diciamo, che eccezione eccezionale, permettetemi il bisticcio di parole, ha fatto Susanna, se qui sono molto lusingata, onorata, a Non ci sono più le mezze stagioni, visto che in genere, appunto, come lei dice, sta a Partata. Quindi costringerla ad affacciarsi sulla finestra del mondo e dell'Italia in particolare, a dirci cosa pensa di quello che succede, insomma, è una cosa molto interessante. Per esempio, parliamo di Lacrime, Susanna. Sì. Tanto per stare allegri, no? Sono una cosa bellissima, secondo me, perché quando uno piange, piange vuol dire che ha ancora un'emotività, un'umanità profonda, perché non sono lacrime di coccodrillo, ovviamente. Secondo te quelle della Fornero erano coccodrillo oppure... No, secondo me erano vere. Secondo me erano vere, perché sono cose difficili da dire, decisioni difficili da prendere, si sa che scateneranno molto, molto dolore, molte difficoltà, dunque una persona che è emotiva, una persona che ha a cuore il bene comune, secondo me può avere un'esplosione, una giornata, uno stanco, è più alla luna storta, cioè nei momenti in cui uno è più fragile, no? Dunque più facilmente piange, può succedere di piangere, è una cosa appunto bella, se non sono lacrime appunto finte, no? Senti, saltiamo da un'altra cosa e poi sentiamo con le ascoltatrici e ascoltatori che già stanno chiamando al numero verde. E, tu sei cattolica, no? Sì, come la credente. Maggior parte degli italiani. Sì, però tu sei particolarmente fervente, cioè no, tu scrivi credente, anche di questo argomento. No, ecco. No, perché io dico una cosa che mi irrita un po', no? Cioè io sono una persona credente, questo assolutamente, con un percorso molto vario, molto ricco, molto anormale. Tu sei nata in una famiglia atea, leggevo. Sì, tra assolutamente, ecco. Anche di grandi anticlericali. Però sì, sono scritto, dicono, lo scrittore cattolico. No, io non sono uno scrittore cattolico, perché allora, se no, non so, Giacomo Poretti, che è il comico di Aldo Gianni Giacomo, è un comico cattolico, cioè non si può definire una persona per la sua fede, perché questo è un grande razzismo, una grande come dire, emarginazione. Quindi sono scrittore e sono una persona credente, queste due cose vanno insieme, per mettere la distinzione subito. Però dopo ti dico perché ti ho fatto questa domanda e ho sottolineato questo aspetto, ma quello che mi incuriosisce sempre quando ti sento parlare, perché dici sono uno scrittore e non una scrittrice, per esempio? Ma fin da bambina sono percepita così, ho avuto difficoltà con la mia parte, ho sempre odiato il rosa, ho odiato le bambole, o sognavo di fare una carriera militare, dunque è un immaginario abbastanza maschile, forse perché dal punto di vista astrologico a chi interessa la luna in leone, ed una luna molto maschile, dunque darsi che sia questo, non so, non, la scrittrice non mi sono mai identificata con un certo tipo di femminilità. Questo è interessante, poi magari ci ritorniamo. Sono molto femminile, per dire, amo, faccio le torte, tengo benissimo la casa, sono una provetta smacchiatrice, però questo tipo di risultati strani. Il pennarello indelebile, come si smacchia? Mi ha appena macchiato la tovaglia, una persona pasticciona. E con un pennarello quelli di indelebili, sì, indelebili. Cioè smacchiatore apposta per pennarelli, ah sì? Anche quelli indelebili? Sì, assolutamente, c'è uno apposta perché è troppo complicata come macchia per le cose più semplici. Infatti. Poi me lo dici magari per non fare pubblicità dopo dietro le quinte. Ecco, dicevo, a proposito di religione, questo ti volevo chiedere, fare due domande. Una, per esempio, su Michele Zagaria, tu sai, l'ultimo dei grandi boss dei casalesi, è stato acchiappato in questi giorni, eppure nel suo rifugio c'è un sacco di santini, Padre Pio, croci, perché come fanno a mettere insieme queste cose? Non mi ricordo quale fosse, uno grandissimo che hanno arrestato, che aveva poi nella sua tana una quantità di libri di teologia pazzesche. Sì, Provenzano forse, forse Provenzano mi sembra. Forse Provenzano, uno grande di qualche anno fa. Più grosso di Provenzano mi sembra, solo Rina e Provenzano che sono i più grossi di tutti. Sì, erano anche abbastanza giovani, magari sembrava la cella di un teologo. Secondo te come riescono a mettere insieme queste cose, ammazzare gente, far fuoco, vivere sempre nel sangue? Questo per capire un po' il mondo, gli intrecci proprio storici che ci sono in quelle regioni, tra chiesa, tra immaginario religioso e questo tipo di organizzazioni che non sono cose per me che sono di Trieste, sono un po' veramente difficili da capire. Anche di certe conviventi che hanno permesso queste cose, poi si sa benissimo che tutte le feste patronali, ad esempio del sud, molte feste sono feste in cui in realtà si manifestano queste le poteri delle varie famiglie, no? Cioè, c'è un intreccio tra chiesa e c'è stato per tanti anni, che adesso ci sono tante persone che si oppongono a questo, abbiamo avuto anche dei martiri, abbiamo avuto un vescovo come Bregantini che ha fatto di tutto, no, per cambiare queste cose, però sicuramente c'è una consuetudine storica tra chiesa. Susanna, invece, andando sulla questione dell'ICI, no? È una cosa che insomma, si è dibattuta fino a ieri, poi fortunatamente, meglio tardi che mai, diciamo, il Cardinal Bagnasco ha detto ma insomma non abbiamo pregiudiziali sull'argomento, potremmo anche discuterne. Ti leggo, prima che tu mi dica la tua opinione brevemente, Susanna, le opinioni degli ascoltatori sulla pagina Facebook della trasmissione, vediamo se le ritrovo perché me le ho stampate per fare prima. Eccole qua, ecco che cosa dicono, per esempio... Fabrizio dice sarebbe sacrosanto che pagassero anche per gli immobili della chiesa. Robert scrive pagare anzi con gli arretrati, massimo, e se poi Dio ci punisce, lui si preoccupa. William, separare il culto dal profitto, no alla tassa su chiesa, curia, caritas e opere sociali, sia tutto il resto. Come sempre non si può fare demagogia, altrimenti dovremmo denunciare la chiesa anche per mancate dichiarazioni delle elemosine in chiesa, denunciandoli per evasione fiscale. Lorenzo, non si può prescindere da una decisione del genere. Se gli immobili di proprietà del Vaticano non sono destinati esclusivamente ad attività non di lucro, debbono essere tassati e quindi debbono pagare l'ICI. Sonia scrive, è giusto che paghino, ogni attività viene tassata. Però che gioco sporco, se pagassero tutti un po', compresi i politici, potremmo stare un po' meglio noi poveri pensionati e cassa integrati. Daniele, la Chiesa deve e può pagare l'ICI, magari usando quella parte dell'8 per 1000 che gli viene donata automaticamente quando non viene indicato nessun beneficiario nella dichiarazione dei redditi. E poi Daniela invece dice, mi sembra doveroso che anche il Vaticano paghi le tasse, così come le pagano tutti i cittadini italiani onesti, e poi non sono loro a predicare l'amore in una situazione del genere, anche loro non possono far finta di niente. Che ne pensi tu, Susanna? Dunque, ho letto adesso proprio mezz'ora fa sulla Repubblica che non solo il Vaticano non paga l'ICI, ma neanche i circoli ARCI. Sì, sì, lo stavo guardando anche sulla prima pagina. Anche le ONLUS, le ONG, Medici Senza Frontiere, Emergency, tutte queste organizzazioni non pagano l'ICI. Ora io trovo più che giusto che la Chiesa paghi l'ICI se ha delle attività che sono, non sono appunto di ordine filantropico, ma di altro ordine, anche perché possiede degli immobili pazzeschi, cioè a Roma delle proprietà insomma veramente importanti, non solo a Roma, dunque è assolutamente giusto che paghi l'ICI, come è giusto che paghino tutti quelli che appunto non fanno attività che sono solamente di assistenza o di cose insomma per cui non si possono dare soldi fuori. Se io poi mentre stavo telefonata ho pensato che io mentito il studio, sono maestra elementare, dunque dico cose elementari, non aspettate che trascendentali. Però sono una persona che ha lavorato molto con gli animali, dunque ti farò un paragone animalesco. Allora, io sono indignata da sempre per il fatto dei privilegi della nostra classe politica, da sempre. Sì. Perché è una cosa immonda ed è l'inizio della corruzione, no? Allora, se tu fai una discarica, no? Una discarica di una città, invece di fare un impianto di termo, fai una bella discarica, un tipo Malagrotta, no? Su questa discarica, dove c'è tanto cibo, che animali arrivano? Petirossi? I gabbiani? Cappellini? Usignoli? Animali dolci? No, arrivano i super predatori, arrivano i ratti, arrivano i corvi, arrivano i gabbiani, cioè arrivano gli animali più prepotenti, no? La stessa cosa, se tu fai una carriera, una via di lavoro, che diventa una fonte infinita di cibo per te, per i tuoi parenti, per tutti, non arrivano i cardellini e i usignoli, arrivano i corvi e i ratti. E questa è proprio una realtà assoluta, non si può, no? Perché sicuramente ci sono delle persone che fanno politica per passione, ma se il sistema è così, questa passione scompare in breve tempo. Invece se uno non politica, adesso lo stipendio di un bravo chirurgo, di un bravo professionista, no? Così è giusto, giusto, come fanno in Danimarca, come fanno in Finlandia, andrebbero le persone che hanno a cuore il bene comune, che hanno passione per la politica. Chiarissimo. Non le persone che vogliono sistemarsi certo, per cinque generazioni. Questa è una cosa così ovvia. Infatti quando hanno fatto l'euro, io ero abbastanza, sempre che sono maestra elementare e non economista, ero abbastanza perplessa, dice, ma come? Noi abbiamo la stessa moneta della Finlandia, della Danimarca, ma qui hanno dei governanti che vanno a lavoro in bicicletta e che hanno gli stipendi da professionisti. Noi abbiamo una classe di divoratori di beni pubblici. Com'è possibile che regga una moneta che è la stessa ma con un sistema così diverso di gestione della politica? Non può reggere, ha detto la maestra elementare, la levatrice di conigli tanti anni fa. E adesso sì, Conte è arrivato. Come si fa una moneta e dei mondi così assolutamente lontani anni luce, no? Molto dice che non può reggere. Non è che intanto stai girando la ricotta, no Susanna? No, ho lasciato l'attività donnesca. Sei concentrata in questo momento. Susanna Tamaro, che ha appena pubblicato, vi ricordavo, due libri, L'isola che c'è, che è ricca di brevi saggi su tanti argomenti, anche uno si intitola per esempio Viva l'Italia, no? Tu ci hai detto prima, intanto in questo breve saggio dici tutto il tuo amore, tutta la passione per l'Italia, e anche prima con molta veemenza, con molta passione hai detto che quanto sia importante appassionarsi anche nella politica, pensare al bene pubblico e non essere, come hai detto, una classe di divoratori di beni pubblici, no? Quindi sì, questa diciamo è la conferma. Anche io sono medaglia d'oro della Repubblica Italiana, medaglia al valore, e ci tengo molto, proprio per questo ho molto a cuore, io amo molto l'Italia e mi fa male al cuore vedere questo stato di devastazione degli ultimi 20 anni, no? Dunque mi batto molto dalla mia modesta visione di maestro elementare, insomma, per cercare di far ragionare le persone e di fare le cose sul modo migliore. Ti piace il governo Monti? Beh, almeno è, si può vedere anche fisicamente. Sono dei professionisti, speriamo che siano abbastanza severi nel tagliare e anche e soprattutto che si occupino molto di più delle famiglie, che mi sembra stata fortemente penalizzata in questa prima cosa, e che facciano questa pulizia, che ci portino al livello danese. Infatti quando in Danimarca hanno smesso il governo qualche mese fa e hanno messo questo di 25 anni, ma mandateci noi quello che avete smesso. Che vanno in bicicletta, è vero. Quelli politici giovani, mandateci in Italia, forse 10 anni di governo danese ci farebbe bene, ad esempio. Senti Susanna, proviamo a sentire intanto al numero verde 800 24 00 24 le ascoltatrici e gli ascoltatori. Francesco da Bari, per esempio. Francesco, buon pomeriggio a te Francesco. La faccio breve, io sono un direttore di ufficio postale e ogni giorno mi ritrovo ad ascoltare i malumori della gente. Prima ho sentito da lei dire praticamente che il Cardinal Bagnasco aveva dato un'apertura al pagamento del liceo. Sì. Ma lei non crede che sia stato più opportuno, anziché dare un'apertura, dare proprio dire ai cittadini italiani dobbiamo dare una mano, voi che pagate sempre comunque a testa china dovete sempre rispondere a queste chiamate, lo facciamo anche noi e diamo questo segnale a tutti, quindi dobbiamo aiutiamo anche noi, anziché dare un'apertura, dare proprio una risposta di sì, lo possiamo fare, magari anche in forma ridotta, moderata, però noi aiutiamo come tutti quanti voi dovete fare in questo momento. Dici, facciamo la nostra parte anche noi, no? Visto che appunto si parla di contribuire in un momento difficile per gli italiani in genere, per l'Italia in genere. Grazie Francesco. Adesso, come molti di voi sapranno, spieghiamo anche a Susanna Tamaro, anzi tra pochissimo, mi dicono il collegamento è pronto tra poco con un altro pianeta, per avere diversi punti di vista, no? Anche da Marte sentiamo un po' che cosa si pensa, ma c'è Piero da Vicenza, sempre il numero verde. Piero. Sì, buongiorno. Buongiorno Piero. Vercelli, non Vicenza. Certo, uno nel Veneto, l'altro in Piemonte. Sì, ma siamo vicini. Senti, il riso ti piace? Ti piace il riso? Il riso sono un cultore. È casa riso, vostra, certo. No? Ci mancherebbe, se non mangiamo riso noi. Come lo mangi preferibilmente? C'è un piatto tradizionale vercellese che si chiama la panissa. La panessa? Panissa. Panissa? Detto volgarmente sembra un riso fagioli, però un po' più complesso. Ah, riso fagioli. Beh, insomma, è un piatto completo. Non so se piace... Sì, è un vecchio piatto del Mondariso, una cosa eccezionale. Sentiamo se un piace a Susanna Tamaro, se l'attira sì. Un riso e fagioli, Susanna. Sì, moltissimo. Sono grande cultrice dei legumi, anche del riso. Che fanno sempre benissimo, infatti. Piero? Sì. Sì? Comunque, senta, no, buongiorno. Buongiorno. Io vi stavo ascoltando casualmente perché sto andando a lavorare e volevo dire una cosa brevissima. Però Piero, posso dirti, scusa se ti interrompo, tu non ci sono più le mezze stagioni, non devi ascoltarlo casualmente, devi ascoltarlo proprio perché vuoi ascoltarlo. No, io sento tante volte. Sempre? Radio. Sì, volentieri. Vabbè, mi accontento. Però in questo momento è casuale, l'ho acceso, non l'orario un po' fuori dal normale. Comunque, no, il problema è questo, che volevo fare una considerazione banale. Allora, sì. Con 2.000 miliardi di deficit, mi sembra che questo problema della Chiesa, a parte che mi piace moltissimo la signora che ha parlato prima, che dice delle cose veramente ipersaggi, no? Stai parlando di Susanna Tamaro? Sì, moltissimo, una persona, l'ho apprezzato moltissimo tutte le considerazioni che ha fatto, però le dirò che poi alla fine della Chiesa che paghi l'ICI o non paghi l'ICI mi sembra abbastanza ridicolo i problemi che abbiamo. Sono, guarda che sono un patrimonio, qualcuno l'ha stimato addirittura la possibile entrate fiscali in 3 miliardi. Tutto sommato, perfetto, schifo non farebbe. Anche 30, esageriamo, facciamo 30, no? Ma con 2.000 miliardi di deficit se ne entrano 30, come se uno guadagnasse 2.000 euro e ne entrano 30, cosa ci facciamo? Il problema mi sembra molto più a monte su l'entità che è stata sempre in incremento della spesa generale pubblica che è follia, punto, no, tutto qua. Senti, questa manovra ti piace comunque, Piero? Molto poco, perché a mio avviso non ci sono dei tagli reali, non c'è nessun taglio e penso che se andiamo avanti così ad aprile ne faranno un'altra e a questo punto vorrei sapere se le persone veramente non si stufano. Io sono un libero professionista, pago un tot di tasse che mi sembra tantissimo, perché se posso le dirò un altro concetto, oltre il 20% di tasse, 25% mi sembra pazzia, perché uno smette di produrre a un certo punto, no? Ci passa proprio la voglia. Comunque, vabbè, non sono io a decidere, ma penso che prima o poi qualcuno si stancherà. Grazie Piero, mentre mi pare non si sia staccato Marte di aspettare il pianeta, dal quale adesso abbiamo alcune riflessioni. Riflessioni da Marte. A dire la verità, questa settimana qua su da Marte si è capito ben poco, puntando il telescopio nella nebulosa terrestre, in particolare manco a farlo apposta in quella italica. Se infatti il presidente del Consiglio, professor Mario Monti, ha detto qualche giorno fa, poco prima di presentare la manovra, non ho parlato di lacrime e sangue, perché poi le lacrime invece ci sono state veramente? Perché la ministra Fornero, dopo che tra l'altro precedenti politici e ministri erano abituati a esprimersi con pernacchi e sbadigli, insulti e diti medi, si è commossa per le non troppo magnifiche sorti e progressive degli italiani? E io vado! E perché se la ministra Pianto, squassata dalla marissima medicina da somministrare alla penisola italica, il precedente presidente del Consiglio, rotto l'insostenibile silenzio che osservava inspiegabilmente da qualche giorno, ha detto: non dobbiamo preoccuparci, l'Italia è uno Stato indebitato, ma di cittadini benestanti. Insomma, non si capisce più nulla. Una piange affranta, l'altro sorride rassicurante a 54 denti. E io vado! Persino le parole, diciamolo, non sono più le stesse. L'ICI torna, ma si chiama IMU, generando una tale confusione che per poco non intervenivano gli animalisti pensando che si trattasse dell'EMU, una specie di grazioso struzzo. Del resto, uno struzzo sulla prima casa sarebbe stata davvero un'insopportabile crudeltà per lo struzzo, naturalmente. Meglio l'IMU, dunque. E io vado! Ma anche un termine come anziano, per esempio, un termine come anziano, non si capisce più cosa vuol dire. Prima si diceva un pensionato per dire un uomo anziano, ma adesso come si dovrà chiamare uno che sembra un po' attempato, ma ancora davanti a sé tanti anni di lavoro e di contributi da versare? Uno che non ha più il lavoro, ma nemmeno ancora la pensione, come lo si deve chiamare? Ed inoltre, se si allontana la pensione perché aumenta l'aspettativa di vita, lavorando di più, l'aspettativa di vita si accorcerà e si dovrà riavvicinare alla pensione? Gli inquirenti brancolano nel buio. Certo, sulla lapide di qualche caro estinto strangolato dal caro benzina, si ricomincerà a scrivere: l'accise l'uccise. E io vado! Ma c'è tuttavia di che consolarsi, diciamolo, guardando a chi sta peggio. Il governo della Gran Bretagna, dopo essersi isolato dai paesi dagli ultimi accordi dell'Unione Europea, ha invitato i medici della mutua, per arginare appunto la crisi, a tagliare il Viagra ai pazienti che ne hanno diritto. Da 4 pillole al mese a 2 e basta. E se prima lo facevano 4 volte ogni 30 giorni, ora lo facciano 2 volte al mese. Eh sì, anche il sesso in tempi di magra diventa un lusso. E rieccoci finalmente insieme, sempre Susanna Tamaro con noi. A proposito, Susanna, quindi tu dicevi gli ultimi 20 anni, insomma, di catastrofe, hai detto, dell'Italia. Hai detto anche i costi, quindi, della politica. Hai detto, no? Ti sembra che sia stato fatto un taglio sufficiente? Assolutamente no. Io abito a Orvieto, no? E qui abbiamo spesso dei incontri di partiti, vertici vari con la cittadina simpatica. E quando vengono, è una cosa, c'erano 2500 auto blu, scorte, cose, una cosa per persone che, una sorta di terrorismo, non c'è nessun bisogno, no? Cioè, sono persone normali i politici, perché devono avere le scorte militari, le cose, e questo fa male proprio, no? È un lavoro come un altro, tutti lavorano dei rischi, anche uno che guida un treno fa un lavoro rischioso, no? Perché tutta questa, è proprio un essere lontani dalla vita, dalla gente, un essere arrogante, un essere, non è una bella politica questa dei privilegi, proprio non è in tutti i sensi, no? Forse questa crisi è anche per scuotere questo lato, no, adesso vogliamo dei politici, hanno dei professionisti seri che guadagnano bene come dei professionisti, ma quando si danno le liquidazioni certe persone, ma che senso ha una liquidazione di 5 milioni, 6 milioni di euro? Ma questo è fuori dal mondo della realtà. Specie se poi hanno fatto danni, diciamo, no? Prima non è che fatto bene, per cui questa è una cosa che grida vendetta al cielo. Sentiamo. Nella catechismo chiesa cattolica c'erano i vari peccati, e c'era peccato che grida vendetta al cielo non dare la giusta mercede all'operaio. E questo grida vendetta al cielo a me piace molto come espressione, perché appunto 6 milioni di buonuscita per uno che ha fatto male, anche per uno che ha fatto bene, perché è una cosa folle. Sì, cioè, è comunque troppo, figuriamoci troppo. Poi perché ha fatto male. C'è una relazione tra gli stipendi normali, una relazione normale, numerica, non fantascientifica, non da paperoni, fantasfrigliardi, no? 800 24 0024, c'è Stefano da Bologna, prima della prossima pausa. Stefano, buongiorno. Qual è la tua notizia della settimana, Stefano? La mia notizia no, era solo una domanda che volevo fare, nel senso che volevo esporre una mia idea sul debito pubblico, ecco. Hai una ricetta? Ma forse una ricetta piccolina, però potrebbe, non so se è fantascientifica, ma siccome parto dal presupposto che il debito pubblico l'abbiamo fatto tutti noi dagli anni 80 in avanti, e adesso ne stiamo pagando le conseguenze, ecco, nel senso che abbiamo speso più di quello che potevamo spendere, allora adesso pian piano secondo me dovremmo ritornare, come dire, a restituire un po' alla volta quello che indebitamente abbiamo preso tra baby pensioni, tra cassa integrazione non dovute, eccetera. Come? Cioè, diciamo, aumento spesa corrente che non si doveva fare. Praticamente ci siamo spesi, come dire, i soldi che del patrimonio in feste e ristoranti, insomma. Allora la mia idea sarebbe quella che adesso pian piano dobbiamo restituirlo. E potrebbe essere questa, che tutti i redditi derivanti dalle pensioni, una quota del 5% o anche meno, potrebbe essere pagata dallo Stato in buoni con un rendimento del 3% a scadenza 10 anni, con un'agenzia che con delle quote praticamente, non con dei buoni, come dire, totali, anche delle mini quote, che potrebbe essere immediatamente, se uno ha bisogno, rivenduti sul mercato. Mi sembra un po' complesso, Stefano. Chitettonico di un ingegnerista. Se uno potesse essere pagato col 5% in buoni tesoro, in qualche tempo, in un po' di anni, lo Stato il debito potrebbe ritornare piano piano ai cittadini, evitando di dover pagare degli interessi altissimi come facciamo adesso. Stefano, questa, bene, questa è un'idea, vediamo se qualcuno la coglie, se ritiene che sia una proposta pertinente. Questo per sempre, Susanna, in genere è associato, almeno io lo associo nel mio immaginario, sempre a qualcosa che ha a che fare con l'amore, quei legami forti, certo. Non è solo questo però, no? No, però sicuramente noi per sempre il legame forte, affettivo, infatti se avete caso quante per sempre sui muri con lo spray ce l'ho scritto tantissime, quando si innamorano scrivono per sempre, perché quando uno si innamora giustamente, poi magari non succede così più delle volte, però sente che questa forza così intensa dovrebbe durare per sempre. Ci sono sempre gli ascoltatori al numero verde, ma prima di sentire Roberto ancora qualche istante di pazienza e Flora per esempio da Verona, ti volevo sottoporre anche quest'altro argomento che ha più a che fare, diciamo, ma anche la politica, i costi, quello che abbiamo detto ha a che fare con l'etica. Sai di questa ragazza di Trento, no? I cui genitori l'avevano portata davanti al tribunale in questi giorni perché era rimasta incinta di un ragazzo che loro ritenevano un ragazzo albanese piuttosto violento e quindi per il suo bene dicevano il giudice deve farla abortire. Lei non voleva, è notizia di oggi che poi lei avrebbe scelto di abortire. Sì. E in autonomia, ha detto il padre. Che finale, infatti, sì. L'ho visto. Ma queste sono situazioni molto, molto inusuali, molto moderne, portate a questa situazione di cambio dell'educazione, cambio dei rapporti, cambio di tutto. Naturalmente un aborto è sempre una sconfitta, perché è sempre una cosa comunque orribile per una persona. Bisognerebbe insomma sempre cercare di far nascere la vita, ma c'è evidentemente delle situazioni delicate tipo questa in cui ci sono molti fattori in gioco e comunque è chiaro che la decisione finale deve essere sempre soltanto della ragazza, anche se minorenne, no? Certo. Se lei ha deciso così è giusto così, insomma. Roberto da Chieti. Roberto, no. Pronto, buongiorno. Sei Roberto? Intanto ascolto solo Radio 24. Molto bene. E ascolti ogni sabato, non ci sono più le mezze stagioni, dalle 14 alle 15? Molto bene. Niente, la mia era una domanda. Volevo capire in altre nazioni per quanto riguarda se esiste intanto una tassa tipo l'ICI e se gli enti ecclesiastici pagano l'ICI, perché a questo punto basterebbe omologarci a quello che fanno altrove. Poi per quanto riguarda invece il debito, se non si comincia a tagliare, ma a tagliare dalla sanità alla spesa farmaceutica, alle spese, penso che non ne usciamo. Sulla sanità mi pare che si paghi già, no? Forse bisognerebbe fare dei distinguo, Roberto, no? Cioè, tra chi diciamo, ha le tasche piuttosto piene e usufruisce comunque gratuitamente del Servizio Sanitario Nazionale, cioè ci dovrebbero essere degli scalini, non lo so, delle differenze, no? Ma probabilmente il fatto che venga dato anche tutto e a qualsiasi livello, forse gratis, è forse un errore, cioè per una serie di coperture. Tipo un raffreddore, può darsi che ci possiamo anche permettere di spendere per un'aspirina, cioè una serie di spese che non sono probabilmente importanti e significative, probabilmente forse ci sarebbe una moralizzazione nell'utilizzo sia da parte di chi acquista i farmaci e anche di chi li prescrive, cioè in questo senso, non di tagliarli in maniera non intelligente, però qualcosa si può fare, anche perché non ce lo possiamo più permettere, cioè il problema è che non ci possiamo più permettere quello che ci siamo permessi in tanti anni, dalla spesa sanitaria alla spesa farmaceutica alla spesa pensionistica e quant'altro. E poi qualcuno mi deve anche spiegare per i diritti acquisiti cosa significa, cioè se ad esempio oggi una persona è andata in pensione a 45-50 anni, questo qui non lavora più, probabilmente continuerà a lavorare, quindi probabilmente su quella spesa pensionistica si può anche andare a intervenire se non ha raggiunto i 65 anni come si sta chiedendo, cioè un contributo a questa persona che è andata in pensione a 50 anni che fa sicuramente un secondo lavoro, sicuramente, probabilmente gli si può chiedere. Grazie Roberto. Flora da Verona. Buongiorno, sono Flora da Verona. Sì, è chiaro. Telefono per ricordare ai nostri cari politici che cioè la politica è un servizio che si fa alla comunità e non un lavoro, perché politica deriva da polis, no? Una volta che governava la polis, che governavano la polis, erano dei saggi e vivevano poveramente, forse più dei loro cittadini che governavano. Perciò i nostri politici intanto dovrebbero cambiarsi nome e chiamarsi sciacalli. Io mi propongo di andare in Parlamento gratis, lavorare per la comunità gratis, basta che mi paghino il viaggio e l'alloggio, io non pretenderei altro. Quindi tu, Flora, tu ti candideresti così gratuitamente? Lavorerei gratuitamente, perché è un servizio, come si fa volontariato. Flora, ma poi di cosa vivi? Proprio gratis? Si vanno a lavorare. Flora, proprio gratis, di cosa vivresti poi? Come mangeresti? No. Beh, io adesso vivo di un assegno alimentare di divorzio, mangio con quello, mi pagano il viaggio, mi pagano l'albergo, io sono appagata così, perché io mi metto a servizio della comunità. Cari politici, se mi sentite, questa è la mia proposta. Io mi toglierei, perché un momento così grave, che vedo gente che vive con 400 euro al mese, loro non si sono ridotti un bel niente. Grazie Flora, vedevo a questo proposito, poi sapete che Rizzo, Stella sul Corriere continuano tutti i giorni, farò anche una puntata monografica probabilmente su questo argomento, pensioni, tutti i privilegi del palazzo, la seconda notizia sul Corriere.it, i vantaggi dei dipendenti di Camera, Senato e Quirinale rimasti quasi immutati, a Montecitorio lo stipendio medio annuo è di 131.000 euro, più le indennità, più i vitalizi di cui abbiamo parlato, eccetera eccetera. Susanna, mi viene in mente un argomento, si parlava di diritti acquisiti e questo in realtà è una notizia della scorsa settimana, ma si riallaccia poi a una notizia di quest'altra. Tu sai che in Spagna ha vinto Rajoy, quindi conservatore, la destra, chi ha deciso anche in campagna elettorale lo diceva, che voleva ritornare su alcuni diritti acquisiti come per esempio il matrimonio gay, e lì c'è stata tutta una rincorsa naturalmente a sposarsi prima che fosse presa questa decisione e fosse cambiata questa legge. Allora, da una parte ti chiedo se per te è giusto che una volta arrivati su diciamo progressi, come li vogliamo nominare, su alcuni argomenti si possa tornare indietro, e poi è anche di questa settimana che lo spot pubblicitario della campagna elettorale di Rick Perry, che è forse il candidato favorito dei repubblicani americani, che è cliccatissimo su YouTube ed è il più odiato su YouTube, nonostante lui faccia protagonista del suo messaggio pubblicitario uno spot anti-gay, però YouTube in qualche modo l'ha punito. Che ne pensi di questi argomenti? Ma non so se uno può, una volta che è tornato al governo, può cancellare cose precedenti, non sono in grado di dirne. Pare di sì, che abbia promesso in campagna elettorale di ritornare su queste cose. Ma una volta che è fatta, poi c'è la storia avanti e poi da sola seleziona quello che sarà importante e quello che non sarà importante, secondo me. E dice, questo spot sul gay è molto visto? Questo, sì, è stato cliccatissimo e odiatissimo, è il più disprezzato di YouTube. Cliccato e odiato perché è contro i gay? Sì. Beh, è normale, perché adesso c'è un grande sostegno per questa causa, no? Comunque se uno fa una campagna pubblicitaria contro i gay si dà la zappa sui piedi, secondo me. Senti, no? Susanna, siccome sei personaggio pubblico, no? Sì. Di te si è detto tante volte, convivi da tanti anni con una donna. Sì. Ecco, questo fatto significa che, cioè, tu da questo punto di vista cosa ne pensi? Ma io sono vivo con un'amica, non sono una persona gay, ma comunque io penso che dovesse esserci una legislazione per tutelare persone come me che vivono con un'altra persona, che non è un marito, una moglie, un'amica, forse una zia, una cucina, quello si vuole. E che permette alcune cose sugli affitti, sulle delle facilitazioni pratiche, no? Sì. Civili, dei diritti civili naturalmente, no? Per quanto riguarda il matrimonio gay, io la penso come Paolo Poli. Io sono una figlia degli anni 70 e sono una figlia di re nudo. Credo che essere gay è diverso che essere eterosessuali ed è bello perché è diverso. E dunque il matrimonio gay mi fa una gran tristezza. Fa una grande tristezza, e penso che chi vuole matrimonio gay in realtà sono gli avvocati matrimonialisti, perché siccome sono che si sposa gli eterosessuali e devono pure avere delle cause di divorzio, no? E dunque avranno delle nuove serbatoie da cui fare le cause, perché per me deve rimanere un'altra cosa. Se però i diritti civili naturalmente, no? Quelli di poter assistere, poter condividere l'affitto, reclutarla, ma in sé propendo per la vecchia ipotesi. Quindi tu saresti per le unioni civili, anche per le persone dello stesso sesso? Ci sia una legislazione che li tuteli? Sì, questo per forza. No, pensa che per due sorelle anziane, cioè qualsiasi persona, due persone che vivono insieme e che non sono legate a un rapporto matrimoniale. Però se diciamo madre figlio, madre figlia, forse quelle qua. Ci sono però. No, perché poi per avere il matrimonio gay, poi se non si è avuto neanche questo, perché alla fine è questo, no? Cioè tu dici bisogna iniziare pian pianino, una cosina per volta. Avete queste cose di civiltà, naturalmente, no? È il primo gradino, però per avere più in là poi si è persa anche la possibilità di avere tutte le cose di convivenza, che mi sembra che non sono passate, non so, perché io non seguo molto queste cose, ma mi sembra che non siano passate tutte le famose. No, non sono proprio più non passate. Non sono passate, appunto, dunque invece questo è un fatto di civiltà, naturalmente, no? Susanna, ma se tu invece avessi un rapporto d'amore con questa donna, lo diresti? Se mi sposerei? Lo diresti che è un rapporto d'amore, non d'amicezza? Certo, se fosse senza problemi. Medioevo, scusa. Benissimo. Susanna, tra pochissimo. Anzi, era un successone, no? Sarebbe un successone. La cosa pazzesca è che io mi batto per questo, che uno deve essere libero di vivere con chi vuole, senza che nessuno vada a immaginare, perché la cosa sordida di questi pensieri è che si pensa sempre che uno nasconde qualcosa. Ma esistono dei rapporti che sono rapporti di amicizia, sono rapporti che sono diversi da quelli che la vulgata ipersessualista desidera, no? Io penso che uno può vivere anche proprio con io, col tuo zio, cioè uno è libero. Però non ci sarebbe nulla di male, non ci sarebbe nulla di male in ogni caso. Appunto, allora perché questa ossessione che uno deve essere così? Ma uno non può vivere secondo i suoi sentimenti e soprattutto uno non può essere libero, non può avere la dignità di vivere ed essere lasciato in pace per, con chi e come vive. Poi tu l'hai scritto, va dove ti porta il cuore, alla fine, no? Appunto, ognuno va. Allora, ecco. Io sono tormentata da anni da questa rottura sacrosanta di scatole. Lo so. Perché vivo con un'amica e devo essere per tutti gay, ma io vivo con un'amica e ho avuto una intensa vita sentimentale prima. Mi sono stufata a un certo punto perché non volevo avere figli e vivo con un'amica con cui vado d'accordo. Ma posso chiederti la vita sentimentale con chi, visto che sono tutti curiosi? Cosa? Posso chiederti la vita sentimentale con chi prima, intensa? Io? Beh, con dei giovanotti. Ah, quindi i giovanotti. Certo. Poi non volevo figli, sono una persona molto molto solitaria, non sopporto la compagnia dopo un certo numero di ore, dunque vivo con altre, no, ma non vivo con solo, vivo con tante altre persone, vivo in una comunità, io non vivo con solo un'amica, vivo in una comunità di persone. Dunque è una scelta diversa, etica la mia, non è una scelta di, è una scelta etica, io vivo in comunità perché penso che se non ci si sposa, vivere solo è molto triste, e poi con gli anni, io più di 50 anni, ci si incarognisce. È vero, questo. Allora, se uno vive in comunità, è costretto. Rimane aperto, aperto agli altri. È aperto agli altri, ma questa è la meta. La mia è una vita di grande apertura agli altri e di apertura alla comunità. Vuol dire vivere con bambini, con ragazzi, capire le cose, avere sempre nuove rotture di scatole, sempre nuovi problemi, ma questo vuol dire non incarognirsi. E per me non incarognirsi è un punto fondamentale della vita. Sono d'accordo. Cara Maria Laura, che osservi oggi dal tuo punto di vista? Ma stavo giusto pensando che in questo momento, in questa settimana direi, l'unico italiano economicamente sereno direi che è il gatto che ha ereditato 10 milioni di euro. Vero, a volte, no? La fortuna. Che, sì, che ci farà? Li spenderà in scatolette, secondo te? Cosa farà? Ma non lo so, in questo momento in molti vorremmo essere quel gatto, specie tutti quelli tra noi che hanno fatto il pensionometro sui siti dei nostri giornali. In redazione c'era chi diceva andrò in pensione tra 48 anni, io dicevo sfigata, io solo tra 35. Insomma, sta settimana è una passata galera, in allegria. Una galera. È passata in allegria. Io però vorrei difendere un evento che in questi giorni è stato impopolare. Sì. Cioè la prima della Scala. Il 7 dicembre, come sempre, Don Giovanni. Il 7 dicembre. Sono stati criticati quelli che ci sono andati in abito da sera, sono stati molto giustamente criticati i giornalisti che si sono sprosciuttati a dire che erano tutti sobri, anche Marta Marzotto. Va sobri, va questo aggettivo in questo periodo, quindi ci manca. Sì, va molto, sì. E io vorrei sobriamente obiettare che in qualunque tipo di società, in qualunque tipo di governo ci possa essere in Italia, ci sarà una classe dirigente che vorrà andare alla prima della Scala a volte a dare il peggio di sé. L'importante è che continui a esistere la Scala. Io, non essendo stata invitata come sempre, accidenti, l'ho sentita alla radio, era un Don Giovanni bellissimo, l'importante è che ci continuino a essere opere alla Scala, questa è la nostra eccellenza, non le signore più o meno sobrie. Siamo d'accordo sobriamente, Maria Laura Rodotà, grazie. Ciao Maria Laura. Susanna, sì? Secondo te, tu hai fatto intanto il calcolo col pensionometro? Hai visto quando? No, io per me no, perché non mi sono pagata la pensione da sola. Da sola, quindi deciderai tu quando sarà. Siamo benestanti, secondo te, come ha detto l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, è un paese ma di benestanti? La cosa è abbastanza strana, perché sicuramente credo che c'è molto sommerso, perché ad esempio se vuoi prenotare una settimana bianca, adesso è tutto prenotato, no, a parte che non ce n'era, insomma, dunque evidentemente dei soldi ancora ci sono. Ma le famiglie normali, tra virgolette, famiglie che hanno uno stipendio, le famiglie che magari hanno due o tre figli, per non dire quattro, queste famiglie sono alla più che con l'acqua alla gola, sono in stato di grande disperazione. Infatti io trovo anche che sia sbagliato mettere l'ICI sulla prima casa di famiglie che hanno solo quella, che hanno uno stipendio. insomma, una cosa grave, secondo me, no? E credo veramente che le grandi penalizzate sono le famiglie in questo momento. Molte famiglie vivono perché hanno un anziano in casa che ha la pensione, ma quando l'anziano muore, insomma, la situazione in realtà è abbastanza grave. Quindi sei d'accordo che bisognerebbe fare delle differenze, non fare le cose così generaliste? Anche nel servizio sanitario, a parte ci sono degli enormi sprechi, vengono fatti fare quantità di analisi inutili, cioè c'è proprio un andazzo, no? Così. Ma poi è giusto che uno paghi secondo quello che deve... Cioè, chi non può pagare non paghi, e chi può pagare paghi, insomma, non è follia fare tutto non gratis. Paghi in proporzione al reddito, insomma, naturalmente, no? Certo. E poi fare meno cose, meno medicine, meno analisi, in tutto ci vuole più sobrietà in questo momento, no? Perché hanno fatto tutto troppo, tutto sventatamente, così che sono sempre maestro elementare, con un arancio fa due arance per me, dunque no, da questo non si esce, dunque questo è il punto di base, però bisogna fare molto più per le famiglie, perché le famiglie sono veramente in una situazione disastrosa. Massimiliano da Napoli. Sì, buongiorno. Buongiorno Massimiliano. Come sta? Io piuttosto bene. Tu, Massimiliano? Io bene. Volevo intervenire su due argomenti. Riesci a essere sintetico, perdonami Massimiliano. Sì, sarò brevissimo. Brevissimo. Prima sulla Chiesa, vorrei capire perché tutti quanti si accaniscono contro la Chiesa quando poi, voglio dire, è la prima che si trova sempre sul fronte di guerra. Cioè, se vediamo dalla Caritas, tutte le persone che oggi non possono mettere il piatto a tavola, se non fosse per la Caritas, questo sì, però è vero che ci sono una serie di un patrimonio immobiliare enorme, diceva anche Susanna Tamaro, sul quale, però, insomma, se anche loro, come le povere famiglie... Vediamo le cose più importanti. Non penso che il patrimonio della, diciamo, della Chiesa possa salvare l'Italia. Cioè, vediamo questo nuovo ognuno governo. Faccia la sua parte, però, no? Non ti sembra? Cioè, lo stesso Cardinale Bagnasco forse ha riconosciuto che è un minimo, no? Però voglio dire, la Chiesa sta continuando a dire che in effetti sulle attività commerciali loro all'ICI la pagano, c'è proprio una, diciamo, voglio dire, quindi non è quello il problema. Ci sono voci contrastanti, però se lo stesso Cardinal Bagnasco ha detto non abbiamo pregiudiziali, vediamo un po' caso per caso, forse... Però io dico, vediamo i problemi più importanti dell'Italia. Massimiliano, allora dimmi l'altro problema, visto che siamo proprio in corsa. Diciamo, governo Mario, io lo chiamo Mario Monti, voglio dire, questo governo tecnico che poi alla fine mi sembra un po' che stiamo rivivendo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia per forza si volle alleare con la Germania. Noi siamo voluti per forza, voglio dire, fare questo patto di questo sodalizio con Bruxelles, con la Germania in questo caso, voglio dire, alla fine sempre contro l'Italia, non so se rendo l'idea. Insomma, punti di vista. Massimiliano, ti ringrazio, adesso devo correre verso il prossimo appuntamento con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale chiedo, Valeria, il termine di questa settimana è sacrificio, quel termine che proprio la Fornero, la ministra, non riusciva quasi a pronunciare, si è fermata, dicelo tu. Comprensibilmente non riusciva a pronunciarlo, e allora facciamone velocemente la storia. Naturalmente viene dal latino sacrificium, che contiene già quell'elemento sacrum, che risale al significato originario anche nella lingua italiana, e cioè di offerta fatta a Dio in segno di devozione o per placarne la collera. E poi naturalmente il significato è andato avanti, il significato attuale, cioè quella di grave privazione, di rinuncia imposta dalla volontà oppure imposta dalla situazione, è un significato che si è imposto solo a partire dall'inizio dell'Ottocento. Per consolarci dei sacrifici dei quali si parla tanto in questo periodo, una brevissima citazione che è questa: siamo costretti a chiedere sacrifici a tutte le classi dei cittadini e ad aggravare le imposte già esistenti. Firmato Camillo Benso, conte di Cavour. Che storia. È una storia vecchia. Grazie cara Maria della Valle, infatti. Cicli e ricicli. E adesso invece volevo chiedo intanto scusa ad Andrea da Sondrio, se non riusciremo a sentirlo tra poco, ma volevo chiedere a Susanna Tamaro, tu sai che domani ritornano le donne in piazza, no? Dopo sì, il se non ora sì, quando sì, del 13 febbraio sì, scorso, certo. Perché dicono con Cristina Comencini, la regista, sì, vogliamo contare di più, il governo è cambiato, non è cambiato il paese, noi siamo il vero welfare di questo, sì. Che ne pensi? Beh, è assolutamente vero, la condizione della donna in Italia è pessima, non c'è nessun aiuto per le madri, non c'è un asilo nido, veramente un deserto di abbandono totale, no? Non solo, ma anche, io dico poi nel mio campo, ad esempio, no, nel campo della cultura, ecco, faccio un esempio chiaro, Fabio Fazio invita solo uomini, il 90% sono uomini, se invita una donna è un'attrice, dunque non è solo Berlusconi con le ballerine, ma è tutto un modo di vedere la donna che la respinge in un angolo di un angolo minore. Susanna, no, quindi la copertina a 50 anni non possiamo la copertina, non mi interessa, ma però a questo proposito, perdonami se ti interrompo, quindi mi prometti che ci sarai di nuovo, qui non ci sono più le mezze stagioni, che non si può no, dire che non invito le donne. Voglio fare un appunto, puntata con voi soltanto sui treni. Sui treni? Perché sono 40 anni che viaggio in treno. Bene. Sono la memoria storica delle ferrovie dello Stato. Sono sporchi, sono sempre in ritardo, lo leggevo anche ieri. Susanna, dimmi solo, che un regalo che farai quest'anno? Una forma di formaggio? Un coniglietto? Regalo che farò quest'anno, ma tutte cose da mangiare, anche con la crisi, l'olio, il miele, le cose che produco. Che sanno che sono fatte con le tue mani, con le tue mani biologiche, fatte con cura. Anche qualche ricamo, qualche coniglietta ricamata. Qualcosa. Benissimo, fortunati quelli che vanno i tuoi regali. Grazie Susanna Tamaro. Grazie a voi. Grazie. E da Roberto Giordano, Serenio Orizzonti. A tutti.